English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Per il nostro appuntamento settimanale con l'inglese, fa freddo. Allora abbiamo deciso di spostarci in un posto ancora più freddo per sentire ancora di più l'atmosfera invernale. In realtà stiamo parlando di un paese che vive un momento un po' difficile. Noi parliamo dell'Islanda perché proprio all'Islanda è dedicato un approfondimento nel nostro English 24 in edicola. E quindi partiamo con un audio del CD allegato al nostro mensile, un audio di un servizio che è tratto dal The Guardian e che parla proprio della crisi dell'Islanda. The fish, of course, were first. The banks didn't come until much, much later, and with them, the high interest savings accounts and insanely leveraged investment vehicles. But always, out there were the fish. And as a shell-shocked Iceland now stares national bankruptcy full in the face, it's to the fish that it will have to return. And maybe to Bjork, but more of her later. More of her later, ha citato Bjork, che è uno dei personaggi islandesi più famosi. More of her later, quindi per il resto noi vi rimandiamo all'ascolto del CD di English 24, ma cominciamo ad analizzare un po' quello che ci racconta The Guardian di questa crisi islandese. Parte e arriva dai pesci, come mai, Giulia? E poi proprio la Iceland, no? Che noi traduciamo come Islanda, ma se lo guardiamo bene vuol dire semplicemente la terra dei ghiacci, così come Greenland, che noi poi traduciamo Groenlandia, in realtà è la terra verde, quindi questo forse in inglese appunto ci dà più l'idea della terra fredda, dove essendo un'isola la maggior parte delle persone dovevano la loro sussistenza ai pesci, quindi the fish of course were first, cioè all'inizio era il pesce, potremmo dire così. E forse andava meglio così, perché poi cosa è successo dopo? Poi dopo sono arrivate le banche. The banks didn't come until much later, cioè prima c'erano i pesci, poi sono arrivate le banche, quindi non sono arrivate until much much later, fino a molto molto più tardi. E naturalmente questo è il grande shock dell'Islanda, che è stato forse l'unico finora paese a effettivamente dichiarare bancarotta. Quindi with the banks came the high interest savings accounts. Savings accounts sono i conti, i nostri conti di risparmio in banca, che poi in inglese, se sono savings account, sono qualcosa di molto simile ai nostri libretti di risparmio, in questo caso con high interest, cioè questi eccessivamente alti interessi che naturalmente forse avrebbero dovuto destare qualche sospetto fin dall'inizio. Infatti poi parla di qualcosa di davvero eccessivo. Che cosa è successo? Ecco, sane è un false friend, perché sane non vuol dire sano, ma vuol dire in sé, quindi in possesso delle proprie facoltà, perciò insane, pazzo, insanely, pazzamente, insanely leveraged investment vehicles, sono dei veicoli di investimento. Insanely leveraged vuol dire finanziati in modo assolutamente pazzo, insano, fuori di testa. Questi naturalmente sono tutti quei bond, quei hedge fund e tutti questi altri strumenti finanziari che abbiamo purtroppo conosciuto, anche magari chi non ha mai investito, ma i giornali ne sono pieni, sono appunto dei veicoli finanziari che alla fine non hanno mantenuto le promesse che facevano. E quasi The Guardian suggerisce agli islandesi di tornare al pesce, sostanzialmente. Sì, dice out there, ovviamente were the fish, continuavano a esserci i pesci che non aprono conti in banca e non investono in hedge fund, e quindi questa shocked island, questa isola sotto shock, forse it's to the fish that it will have to return. To have to, sappiamo che vuol dire dovere, quindi must, e it will have è il futuro, quindi dovrà tornare al pesce, appunto. Se non altro, il Fondo Monetario Internazionale ha approvato un aiuto da 2 miliardi di dollari, e sentiamo come lo racconta Paul Thompson, che è rappresentante del Fondo Monetario Internazionale al lavoro proprio in Islanda. Iceland allowed a very oversized banking system to develop, a banking system that significantly outstripped the authorities' ability to act as a lender of last resort when the system ran into trouble. There's no doubt that Iceland is going to face a couple of years of hardship. This is a dramatic shock, an unprecedented shock. It's probably going to be the most expensive bank restructuring that the world has ever seen relative to the size of the economy. So I do expect after this relatively sharp downturn that the economy could rebound fairly fast. Cosa ha spiegato questo Paul Thompson, che è rappresentante, appunto, dicevamo, del Fondo Monetario Internazionale e che sta lavorando proprio in Islanda? Notarsi tra l'altro l'accento, no? Un inglese bellissimo, però come parlato in punta di lingua, in un modo molto delicato. Sostanzialmente lui dice: "We, the island, allowed, ha permesso a very oversized banking system", cioè un sistema bancario oversized, anzi very oversized. Oversized naturalmente è letteralmente sopra la stazza, sopra la taglia, quindi fuori misura. Quindi era molto fuori misura, era praticamente un'isola dove probabilmente un isolato sì, un isolato no, c'era una banca che offriva tassi di interesse, come abbiamo visto, non sostenibili nel lungo periodo. Addirittura questa cosa ha un po' superato il potere delle autorità, cioè è andata al di là di quello che poteva fare l'autorità islandese. Sì, to outstrip vuol dire proprio to strip, vabbè, vuol dire anche striscia, però outstrip vuol dire andare oltre quella striscia ideale, quindi superare il limite entro il quale le authorities could have done something. Quindi era, la crisi è stata talmente forte, talmente ampia, che nessuna autorità ha potuto intervenire per tempo. E ovviamente è stato uno shock senza precedenti. Dramatic e unprecedented. Precedente esattamente come in italiano, sappiamo che gli inglesi mettono davanti questo un per appunto fare la negazione di una parola, quindi unprecedented, che non si era mai visto prima. Gli islandesi ovviamente si stanno rimboccando le maniche. Cosa succederà secondo l'FMI nei prossimi periodi? Ma ammette il rappresentante dell'Islanda che it's probably gonna be, qui usa un'espressione molto americana, no? Sappiamo che gli americani usano gonna wanna al posto di going to e want to, quindi it's gonna be the most expensive bank restructuring. Quindi the most expensive, quando l'aggettivo è molto lungo sappiamo che non possiamo metterci la st alla fine, dobbiamo metterci most davanti, quindi most beautiful, most expensive, quindi sarà il più caro delle operazioni di bank restructuring that the world has ever seen, che il mondo abbia mai visto. Tutto questo peraltro in un paese piuttosto piccolo. Certo, probabilmente guardando a Lehman Brothers o agli altri salvataggi delle banche, anzi Lehman Brothers è fallita, ma le altre banche che invece saranno salvate negli Stati Uniti, sulla carta questo bank restructuring probabilmente è più grande, però dice lui relatively to the size of the economy, quindi se facciamo la proporzione con la stazza dell'economia finlandese, allora il nostro avranno questo triste primato di avere il most expensive bank restructuring. Però dice the economy could rebound. Rebound è rimbalzare letteralmente, anche della pallacanestro, però in questo caso naturalmente l'economia potrebbe rimbalzare, appunto, cioè tornare a prosperare. Ma come hanno reagito alla crisi proprio gli islandesi? Sentiamo questo servizio della ABC. It is the land of fire and ice, where powerful geysers dot the landscape and volcanic steam is used to heat everything. For Icelanders, a dip in a hot pool on a freezing morning is like a walk in the park. On this morning, there is one thing floating in everyone's mind. Is Iceland on the verge of financial ruin? We don't believe we are collapsing or Iceland is collapsing. We go to our jobs every morning and we believe that we will get through this. Oli Agildestutir, a single mother, sold her home, put all the profit into two banks here, both went belly up. Oli, a student, hoped to finish school this year. Now she's juggling a part-time job, raising her 9-year-old Alexander, and going to school. Her plans for the future on hold. Abbiamo sentito parlare spesso dei pesci, dell'acqua, insomma è un'isola, e anche qui questo servizio della ABC descrive questa isola, peraltro deve essere splendida, deve essere magica, nonostante la difficoltà, insomma anche il giornalista si lascia trasportare dalla bellezza del luogo. Fire and ice, fuoco e ghiaccio, perché naturalmente accanto alle distese coperte di neve ci sono i powerful geyser that dot the landscape. Geyser sappiamo cosa sono, quegli stranissimi fenomeni naturali della fumata di vapore che esce, o anzi di acqua calda che esce dalla terra, dot the landscape. Dot è il punto, tant'è che per esempio gli inglesi non dicono un vestito a pois, ma dicono un polka dot dress. Quindi dot the landscape, che lasciano dei punti sul paesaggio, quindi il paesaggio puntellato prodotto dai geyser. Ed è lo stesso che utilizziamo per gli indirizzi internet.com. Certo. C'è questo vapore dei vulcani che crea un contrasto con il freddo dell'ambiente. Sì, è divertente perché io vorrei un giorno fare questa esperienza. Cioè gli islandesi escono, they dip into a hot pool, cioè escono, suppongo la temperatura sia sotto zero. To dip vuol dire, si può usare anche dei biscotti, vuol dire immergersi, quindi o immergere qualcosa o immergere se stessi, quindi immergono se stessi in a hot pool, in una piscina hot, veramente calda, che naturalmente è heated up dal volcanic steam, cioè è un calore naturale dovuto al steam, al vapore vulcanico, sempre quello che alimenta anche i geyser. E infatti il giornalista va a trovare una signora che, ve lo possiamo raccontare, davvero immersa in una hot pool e lei sembra abbastanza, forse rassegnata più che serena, non lo so, forse è un po' di flemma islandese. C'è questa flemma nordica che dice, anche con questo accento molto forte, ma anche qui l'inglese è molto corretto, dice we believe that we will get through, cioè noi siamo convinti, we believe that, che we will get through vuol dire passare attraverso, quindi superare, che supereremo questa crisi. La signora immersa nella piscina bollente dice così e il giornalista incontra anche una ragazza molto giovane ma con un bambino già grande, e a lei cosa è successo? Una ragazza madre, cioè comunque una ragazza che vive da sola con suo figlio, quindi a single mother, e racconta che le sue banche went belly up. Noi diciamo a gambe all'aria, invece gli inglesi dicono a pancia all'aria, che però vuol dire la stessa cosa, cioè falliscono. Quindi le banche dove aveva i suoi risparmi went belly up, sono fallite, e lei adesso è juggling a part-time job, si deve destreggiare, ecco, potremmo dire così in italiano, con un lavoro part-time. Her plans for the future, punto di domanda, on hold. On hold lo si può dire anche del tasto del registratore, vuol dire in pausa, quindi i suoi piani per ora sono congelati, visto che siamo in Islanda. Vi rimando all'ascolto e alla lettura del nostro mensile in edicola, perché il nostro tempo radiofonico per questa settimana si conclude qui. Io ringrazio Carmelo Lauricelli in regia, da Marta Cagnola, Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.